Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. 'Ndrangheta e appalti, arresti tra Lombardia e Calabria, interessi accertati nei subappalti di Expo, in manette anche un consigliere, un ex consigliere comunale del PD a Rho. In corso dalle 10 di questa mattina la deposizione di Napolitano sulla presunta trattativa Stato-mafia. Latte scaduto mischiato a quello fresco, tonnellate di letame scaricate nel Volturno, arrestato con queste accuse gravanti il patron di Foreste Molisane. Al sud più morti che nati, per la prima volta dal 1918, dice lo Svimez. Per il Mezzogiorno è il settimo anno di recessione, il 40% delle famiglie in povertà. I mercati provano il rimbalzo, Milano guadagna 1,5 punti. Padoan, gli stress test dimostrano la tenuta delle banche italiane. Sorpresa al botteghino, Il giovane favoloso, il film su Giacomo Leopardi, è secondo in classifica e primo per incassi in rapporto alle copie distribuite. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete scriverci, effettogiorno@radio24.it, oppure durante la trasmissione, il 349-238-6666. Tra un attimo parleremo della maxi operazione contro la 'ndrangheta che coinvolge anche appalti per l'Expo, ma prima di tutto gli aggiornamenti da Roma, dal Quirinale, dove è in corso la deposizione del Presidente della Repubblica sulla presunta trattativa Stato-mafia. C'è là la nostra Raffaella Calandra. Raffaella, buongiorno. Sì, Simone, buongiorno. Qui è il cambio della guardia a scandire il tempo nella piazza del Quirinale, in questa giornata dedicata all'udienza a porte chiuse per l'audizione del capo dello Stato. Già per due volte da questa mattina i corazzieri si sono alternati fuori dal palazzo, mentre dentro, nella sala del Bronzino, Giorgio Napolitano sta rispondendo alle domande dei PM palermitani. Test eccezionale per il processo più delicato e controverso degli ultimi tempi, quello sulla presunta trattativa Stato-mafia. Mai prima d'ora era successo che un Presidente della Repubblica in carica acconsentisse a deporre. Una ventina le domande dei PM, altrettante quelle dell'avvocato di Riina Cianfieroni, ultimo ad entrare questa mattina citando Manzoni: ho dormito, ci ha detto, come il principe di Condé prima della battaglia di Rocroi. E molte battaglie giudiziarie hanno portato fino alla giornata di oggi, col processo su uno dei momenti più bui della storia d'Italia entrato nel colle più alto, sia pur con condizioni ben precise. Due sostanzialmente le questioni su cui Napolitano sta rispondendo: la lettera in cui il suo consigliere Loris D'Ambrosio, morto due anni fa, espresse il timore di essere stato ingenuo scriba, si legge, di cose divenute scudo per indicibili accordi, e poi un allarme del Sismi del 93 su un possibile attentato anche nei confronti di Napolitano, all'epoca presidente della Camera. È degno di ricordare che soprattutto sulle parole di D'Ambrosio, già collaboratore di Falcone, il Presidente della Repubblica ha già fatto sapere alla Corte d'Assise di non avere altri ragguagli, ma i giudici hanno ritenuto comunque opportuno sentirlo oggi e il Colle ha dato la disponibilità per quest'udienza che è eccezionale in tutto, anche nella forma, perché è a porte chiuse ma non è segreta, tanto che nei prossimi giorni sarà reso disponibile il verbale. E per ora dal Quirinale è tutto. E grazie alla nostra Raffaella Calandra. Il GIP di Palermo intanto ha archiviato l'inchiesta contro l'ex presidente del Senato Renato Schifani, che era finito sotto accusa con l'ipotesi di concorso in associazione mafiosa. C'è una nuova inchiesta intanto che coinvolge anche i subappalti per Expo. La procura indaga su infiltrazioni della 'ndrangheta. Ci sono anche subappalti per Expo nella nuova inchiesta che colpisce le infiltrazioni della 'ndrangheta in Lombardia. C'è l'arresto di un ex consigliere comunale di Rho, Luigi Addisi, accusato di riciclaggio e abuso d'ufficio. L'inchiesta della Procura Antimafia di Milano, condotta da Ilda Boccassini, ha portato in manette 17 persone nelle province di Milano, Como, Monza Brianza, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Al centro ci sono due gruppi della 'ndrangheta radicati nel Comasco, con a capo il boss Salvatore Muscatello, già arrestato nell'operazione Infinito e che era tornato ad occuparsi del suo locale mentre era ai domiciliari. A gestire gli affari del clan in Lombardia sarebbe stata, secondo quel che ritengono i magistrati, la famiglia Galati, che si occupava di estendere i loro interessi a speculazioni immobiliari e grandi opere, legate appunto alla manifestazione che prenderà il via nel maggio del 2015. Risultano contatti anche con un agente di polizia penitenziaria e un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, e gli arrestati sono accusati di detenzione di armi, intestazione fittizia di beni e appunto riciclaggio. Risulta tra l'altro, ha riferito Boccassini, che una delle aziende che si presume assumono collegate alla criminalità organizzata calabrese, ha ottenuto il certificato antimafia, riuscendo così ad entrare in due subappalti da 450.000 euro per la tangenziale esterna di Milano. Marcella Vezzoli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ne avevamo parlato la settimana scorsa, oggi arrivano le conferme, si apre un nuovo filone nell'inchiesta sulla presunta maxi evasione fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza la settimana scorsa, ed è il filone della corruzione. Tangenti alla Camera dei Deputati, alla Regione Lazio e al Comune di Roma per ottenere appalti. A pagare la Gesconet, società di servizi che si occupa di pulizie, facchinaggio e trasporti. A ricevere i soldi, funzionari pubblici che istruivano le pratiche e uomini politici. Si parla di 300.000 euro versati in 2 anni per pilotare le gare. E il nuovo fronte dell'inchiesta sulla Gesconet, che ha già portato all'iscrizione nel registro degli indagati 60 persone, titolari e dipendenti della società, per una sospetta evasione fiscale da 1,5 miliardi di euro. Ma c'è qualcosa di nuovo, è la collaborazione da parte di un dipendente. Si tratta della persona che custodiva il libro nero dei pagamenti. Ha ammesso davanti al PM l'esistenza di un file riservato in cui venivano annotate cifre, enti e nomi. Il file era conservato nella memoria di un PC nascosto dentro una cassaforte, ma è stato trovato durante una perquisizione. Adesso gli investigatori stanno ricostruendo il giro di denaro che, sottratto all'erario, dall'Italia veniva spostato nei paradisi fiscali per poi rientrare in parte nel nostro paese e finire nel fondo nero usato per le tangenti. Occorre adesso svelare l'ultimo tassello: chi abbia incassato quei soldi. Monica Ceravolo, Radio 24. Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo nel Matese, tra Campania e Molise, dove è stato arrestato il patron di un'importante azienda del latte. Avrebbe costretto i propri dipendenti, sotto minaccia del licenziamento se non avessero eseguito i suoi ordini, a sversare rifiuti zootecnici nel fiume Volturno e a sotterrare altro tipo di rifiuti nei terreni della propria azienda agricola. Questa è l'accusa all'ex patron di Latte Matese, Foreste Molisane, Antonio Gravante, 75 anni, imprenditore prima nel settore della produzione e della trasformazione del latte e della lavorazione dei prodotti caseari, ora titolare appunto di un'azienda agricola a indirizzo zootecnico, e ai domiciliari per estorsione e smaltimento illecito di rifiuti in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare eseguita dal personale del Corpo Forestale di Caserta. Solo alcuni mesi fa aveva subito un sequestro preventivo di 2 diversi complessi aziendali del valore di oltre 6 milioni di euro. Secondo l'indagine, alcuni imprenditori avrebbero segnalato, a fronte della perdurante insolvenza, una serie di manovre a danno dei creditori. Poco prima un'esplosione per fuga di gas aveva colpito la foresteria dell'ex colosso del latte. Ora l'inquinamento illecito, pari, dice il giudice, a quello di una città di circa 24.000 persone. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Passiamo all'economia. Arriva un segnale positivo dal mondo delle imprese, dati che arrivano però nel giorno di un rapporto Svimez che fotografa una situazione difficile. Una ripresa timida, un segnale di inversione di tendenza, piccolo ma pur sempre significativo, uno spiraglio di speranza che passa dalle imprese. L'indice di fiducia a ottobre è risalito infatti 89,3 punti dagli 86,9 di settembre. Un miglioramento avvenuto, spiega l'Istat, in tutti i settori, manifatturiero, dei servizi, delle costruzioni, del commercio al dettaglio, e che riguarda sia la grande distribuzione, sia quella tradizionale, sia il nord che il centro che il sud. Anche se qui il clima di fiducia resta sempre notevolmente più basso che nel resto del paese, ma intanto a smorzare gli entusiasmi e a certificare ancora una volta il divario che separa il meridione dal resto d'Italia è il rapporto Svimez. Più poveri, meno disoccupati e meno figli, si legge nel documento che analizza l'economia del mezzogiorno, un meridione a rischio desertificazione umana industriale, dunque dove si continua a emigrare e a impoverirsi. Le famiglie povere sono aumentate del 40% nell'ultimo anno, e questo perché manca il lavoro, ma soprattutto, come si diceva, dove non si fanno più figli. Nel 2013 al sud infatti i morti hanno superato i nati, l'ultima volta che accadde era il 1918 e prima ancora il 1867. Nel primo caso era appena finita la prima guerra mondiale, nel secondo la terza guerra d'indipendenza. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Veniamo ai mercati e alle banche. Dopo i risultati degli stress test, secondo i quali 2 istituti di credito italiani, Monte dei Paschi e Carige, hanno bisogno di una maggiore patrimonializzazione, probabilmente dovranno ricapitalizzare. Questa mattina Piazza Affari, parziale rimbalzo, mentre interviene anche il ministro dell'economia, Livia Zancanera. Eccoci, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Oggi Piazza Affari e le altre borse europee tentano quindi di recuperare terreno. Milano, che ieri aveva perso il 2,4%, 2% dopo gli stress test, oggi guadagna il 2% circa, bene anche Parigi più 0,7%, Francoforte più 1,7% e Londra più 0,6%. Sono positive anche le due banche sotto osservazione della BCE. Il Monte dei Paschi di Siena, dopo una flessione del 21%, oggi guadagna il 2,5%, Banca Carige guadagna il 3,4%. I due istituti dovranno presentare alla BCE i piani di rafforzamento patrimoniale entro il 10 di novembre. La banca genovese ha già approvato un aumento di capitale da 500 milioni e la cessione delle compagnie assicurative. Il ministro dell'economia Piercarlo Padoan è sicuro che le due banche gestiranno i rispettivi deficit con operazioni di mercato e che i risultati degli stress test dimostrano la tenuta delle banche sia europee sia italiane. Vi è attesa oggi per l'apertura di Wall Street che è alle 14:30 ore italiane. Ed è tutto. E grazie a Livia Zancaner. Resta aperto il confronto, ma sarebbe più corretto dire lo scontro tra Renzi e la CGIL. Ci colleghiamo con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, eccoci. Sì, buongiorno Simone. Ancora non si placano le tensioni tra governo e sindacati e tra maggioranza e minoranza PD. Ieri il premier ad 8:30 ha risposto a Susanna Camusso, che aveva definito l'incontro con il governo surreale. Matteo Renzi ha subito precisato che non tratta con i sindacati. CGIL, CISL e UIL devono trattare con le imprese, spiega il premier, mentre le leggi si fanno in Parlamento. Intanto si discute all'interno del PD sul Jobs Act, alcune defezioni nel passaggio alla Camera. Votano no Fassina e Civati, che dice anche no allo sblocca Italia, oltre che al Jobs Act, perché contiene norme di destra, mentre Gianni Cooperlo spera che nessuno cerchi la rottura. Il compito di chi dirige il principale partito della sinistra, spiega però Cooperlo, è quello di unire il paese, ma non lo si fa denigrando un pezzo di paese. Anche Cesare Damiano preferisce far parte di un grande partito che non di un piccolo partito di sinistra. A te Simone. E grazie ad Elisabetta Fiorito. E adesso parliamo però, continuiamo a parlare in realtà di politica economica, perché oggi il Ministro dell'Economia è atteso dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, perché ci saranno delle variazioni al documento di economia e finanza. A Montecitorio potrebbe slittare a giovedì l'inizio della sessione di bilancio. Come chiesto dalle opposizioni, il governo dovrebbe infatti presentare una nuova nota di variazione del DEF che tenga conto delle novità decise dall'esecutivo dopo i rilievi arrivati dalla Commissione europea. L'aggiornamento del documento di economia e finanza potrebbe essere deliberato oggi e poi comunicato nelle prossime ore alle Commissioni bilancio di Camera e Senato. Il nuovo esame si concluderebbe in aula la giovedì, è quindi molto probabile uno slittamento dell'esame della legge di stabilità, la cui presentazione da parte del governo dovrebbe essere annunciata oggi pomeriggio dalla presidenza della Camera. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito di legge di bilancio, ci chiede via SMS Andrea se ci risulta anche a noi un prossimo aumento dell'IVA fino al 25%. No, non ci risulta, nel senso che fa parte delle cosiddette clausole di salvaguardia, sono quelle che scattano nel caso in cui non si raggiungano gli obiettivi di bilancio, e l'aumento al 25% sarebbe eventualmente previsto nel 2017. Cambiamo decisamente argomento e parliamo della Cappella Sistina, che diventa a numero chiuso. 7.000 LED che metteranno in risalto i dettagli degli affreschi, da quelli di Sandro Botticelli agli altri maestri del 400, spesso più inosservati. Da giovedì la Cappella Sistina avrà una nuova luce, grazie ad un nuovo impianto di illuminazione. Nel ventennale dal celebre restauro del Giudizio Universale, la Sistina si veste di nuovo per proteggere e valorizzare i suoi tesori. Ci sarà dunque anche un nuovo impianto di climatizzazione, che permetterà di abbattere anidride carbonica, polveri inquinanti, nocive per gli affreschi e controllare umidità e temperature. Se si superassero poi gli attuali 6 milioni di visitatori all'anno, potrebbe scattare il numero chiuso. Una misura, ha spiegato il direttore dei Musei Vaticani Paolucci, necessaria per evitare che l'eccessivo affollamento possa danneggiare le opere d'arte. Dal 2015, infine, ai visitatori dei Musei Vaticani saranno offerti occhiali intelligenti che permetteranno di esplorare la Sistina in 3D e approfondirne la storia prima della visita reale. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Passiamo ad altre arti, il cinema e la poesia, che si incrociano in un film del quale vi abbiamo raccontato, Il Giovane Favoloso, il film che parla di leopardi e che sta avendo un successo per certi versi inaspettato. una repubblica fondata sul liceo classico. O forse c'è solo voglia di poesia se pensiamo che il fenomeno del momento al cinema è Il giovane favoloso. Nel secondo weekend di programmazione, il film di Mario Martone, dedicato a Giacomo Leopardi, ha migliorato le proprie prestazioni rispetto all'esordio, incassando tra giovedì e domenica 1,2 milioni di euro. In cima alla top 10 del weekend c'è, piuttosto prevedibilmente, I Guardiani della Galassia, dominatore del mercato americano 2014. Ma i dati non sono entusiasmanti. 724 copie in programmazione, oltre 300.000 spettatori per 2,3 milioni di euro, meno dei 2,5 che fece il primo weekend di Lucy, uscito in sole 200 copie un mese fa. E le commedie italiane? Meno appeal di una volta. Forse si sconta la ripetitività dei cast e delle idee, ma anche le troppe uscite concomitanti con relativo battage televisivo. In ogni caso, dopo settimane di recessione, il risultato del weekend è migliore rispetto all'analogo fine settimana del 2013, con un aumento degli incassi del 7,44%. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. 'Ndrangheta, arresti tra Lombardia e Calabria, interessi accertati nei subappalti di Expo. Rimanete anche un consigliere comunale del PD a Rho. Un boss, un presunto boss, aveva il certificato antimafia per la sua azienda. È in corso dalle 10 di questa mattina la deposizione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla presunta trattativa tra Stato e mafia. Latte scaduto mischiato a quello fresco, tonnellate di letame scaricate nel Volturno, arrestato con queste accuse gravanti il patron di Foreste Molisane. Al sud più morti che nati, per la prima volta dal 18, dice lo Svimez. Per il Mezzogiorno è il settimo anno di recessione, il 40% delle famiglie è in povertà. I mercati provano il rimbalzo, Milano guadagna 1,5 punti. Padoan dice gli stress test dimostrano la tenuta delle banche italiane. Buongiorno a Domenico Rossi, sottosegretario alla difesa e deputato dei Popolari per l'Italia. Buongiorno e bentornato. Grazie, buongiorno a lei e anche agli ascoltatori. La prima domanda che le voglio fare è di stretta attualità e riguarda una base militare in realtà americana, che è quella di Vicenza. Come gli ascoltatori sapranno e come abbiamo raccontato agli ascoltatori nei nostri giornali radio, ci sono 11 soldati americani che sono in quarantena perché vengono da paesi a rischio Ebola. Dobbiamo avere qualche preoccupazione anche noi, sottosegretario? Ma guardi, intanto dobbiamo precisare che c'è un protocollo del Ministero della Salute in base a cui tutti gli aerei militari che rientrano da paesi a rischio atterrano a Pratica di Mare, che è un aeroporto militare. A Pratica di Mare c'è una struttura sanitaria dell'aeronautica militare che fa un primo controllo e visita ai militari ed ha quindi le competenze e anche gli equipaggiamenti per poter trattare e trasportare i casi sospetti all'ospedale Spallanzani di Roma con un apposito biocontenimento. Questo non si è verificato, pertanto i militari che sono stati visitati da Pratica di Mare sono rientrati nella loro base naturale, cioè su Vicenza. Lì è in corso un protocollo a questo punto americano e direi un protocollo di alta precauzione e sensibilità comunque su una problematica così importante come Ebola, per cui il personale militare è stato messo in una sorta di isolamento precauzionale all'interno della caserma stessa. Quindi siamo a livelli appunto di ultra precauzione, perché in realtà questi militari hanno già passato lo screening a Pratica di Mare. Italia hanno passato un primo screening a Pratica di Mare attraverso una struttura sanitaria dell'aeronautica militare. Allora, bene, e su questo abbiamo chiarito, poi di questo torneremo a parlare con l'assessore alla sanità della regione Veneto, perché insomma ce l'hanno un po' per questa cosa, però l'abbiamo chiamata anche per un altro motivo e per un'altra vicenda che ci ha colpiti molto. Abbiamo appreso che alcuni dei nostri militari in missione all'estero rientrano, cioè fanno avanti e indietro con dei voli di linea. È una vicenda abbastanza curiosa e interessante, devo dire, perché devono passare i controlli di sicurezza come tutti gli altri, si mettono in fila al check-in, poi salgono sopra e poi magari appunto vanno in Libano o in qualsiasi altro luogo dove siamo appunto per le missioni militari, magari anche quelle delle Nazioni Unite. Come mai succede questo, sottosegretario? Guardi, diciamo così, che questa che potrebbe essere apparentemente una carenza di possibilità di trasporto. Ovviamente non è una carenza solo nazionale, riguarda un po' tutti i paesi che hanno delle esigenze nei teatri operativi e che in particolare riguarda quei periodi in cui per il rientro dei militari le capacità di trasporto dell'aeronautica militare sono sottoposte, diciamo così, a un carico non ordinario. In questo senso, come tutti gli altri paesi della NATO, anche noi non possiamo che fare impiegare dei velivoli commerciali. Ogni paese, così come il nostro, fa delle gare attraverso cui appalta, diciamo, questi trasporti, e in questo senso anche il nostro personale rientra con dei mezzi civili. Ovviamente rientrando su scali nazionali non si esclude che possano essere compiuti gli stessi iter e gli stessi controlli normali. Ma no, non vi costa di più, sottosegretario? No, non costa di più, nel senso che evidentemente l'aeronautica militare è calibrata nelle sue specialità per un carico di lavoro medio. Nel momento in cui questo carico di lavoro diventa evidentemente eccezionale, ci sono due possibilità: o poter risolvere la problematica affidandosi appunto a un trasporto civile, oppure bisognerebbe andare ad acquistare per l'aeronautica militare ulteriori velivoli di trasporto finalizzati a questo, per poi magari non impiegarli nella ordinarietà. Grazie a Domenico Rossi, sottosegretario alla difesa, le auguro buona giornata e saluto Matteo Biffoni, sindaco di Prato. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti voi. Allora, l'abbiamo chiamata perché sta proseguendo il processo, tra poco sarà un anno dal rogo di Prato, lo ricorderete, dove una serie di cittadini cinesi sono morti in una fabbrica dormitorio, sette persone sono rimaste vittime. Primo dicembre 2013, è quasi un anno. Sta andando avanti il processo e ieri c'è stata la testimonianza della titolare dell'azienda, che è imputata naturalmente, e che tra le altre cose ha raccontato un fatto che ha sinceramente dell'incredibile per come è stato raccontato. Lo dico a me. Pare che i tecnici comunali siano andati addirittura all'interno di quella fabbrica e abbiano preso le misure degli stessi dormitori dove teoricamente i lavoratori non avrebbero dovuto esserci per misurarli ai fini del pagamento della tassa sui rifiuti. Lei è riuscito ad appurare se questo è vero oppure no? Guardi, quella era una precedente amministrazione. Io nel 2013 non ero sindaco, c'era un'amministrazione precedente, quindi che tipo di atteggiamento c'era rispetto a questo tipo di controlli, di valutazioni, non saprei dirle. Noi abbiamo ovviamente da quel momento, io ho parlato alla mia polizia municipale, da quando ci sono io in carica, acquisito tutti i controlli e le valutazioni che vengono fatte da, in realtà più che tecnici comunali, la società che fa questo tipo di controlli, ASM, una società partecipata che Comune di Prato è socio, ma che si occupa esclusivamente di rifiuti appunto per i... L'abbiamo perso il sindaco di Prato, adesso vediamo se riusciamo a recuperarlo perché abbiamo evidentemente qualche problema di linea. Nel frattempo vi do un paio di aggiornamenti innanzitutto che arrivano dall'estero, dove il contingente di combattenti curdi Peshmerga ha lasciato la base di Erbil nel nord dell'Iraq per portare rinforzo alla città di Kobane, che come vi stiamo raccontando ormai da giorni, da alcune settimane, è naturalmente ancora sotto assedio da parte di ISIS. Questo l'aggiornamento che arriva, mentre la Turchia riferisce che sono 150 i combattenti curdi che arriveranno a Kobane. Questo è l'aggiornamento per quanto riguarda l'Iraq, e torniamo dal sindaco di Prato, Matteo Biffoni. Eccoci qua. Allora, sta concludendo il discorso in merito ai controlli che vengono effettuati e ci sta spiegando che i controlli non vengono effettuati dall'azienda che di fatto si occupa appunto della raccolta dei rifiuti, per poi avere la riscossione della tassa. Le ripeto, lei non è riuscito ancora ad appurare, perché la notizia oggettivamente è di ieri, non è riuscito ancora... No, non è riuscito a appurare niente, non è riuscito nemmeno a mantenere una linea decente sul telefono. Facciamo così, ci fermiamo per un attimo, ci ritroviamo con la borsa e poi magari cerchiamo di ripescare Matteo Biffoni nella seconda parte della trasmissione. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. 'Ndrangheta e appalti, arresti tra Lombardia e Calabria, interessi accertati anche nell'Expo. L'azienda di un presunto boss aveva la certificazione antimafia. In corso dalle 10 di questa mattina la deposizione di Napolitano sulla presunta trattativa fra Stato e mafia al Quirinale. Sono 150 i combattenti curdi che arriveranno a Kobane, lo ha affermato il ministro degli esteri turco. Sono partiti a quanto pare poco fa in aereo da Erbil. Latte scaduto mischiato a quello fresco, tonnellate di letame scaricate nel Volturno, arrestato con queste accuse gravanti il patron di Foreste Molisane. La borsa. Borse in diretta. Giornata di recupero, di rimbalzo, almeno di tentativo di rimbalzo, come si diceva prima. 2 punti percentuali di guadagno per il FTSE MIB, l'1,82% per il FTSE All Share, Parigi più 0,58%, Francoforte 1,5% di guadagno, Londra lo 0,66%. E banche, Isabella Tasso, Radio Corriere Sole 24 Ore, buongiorno. Sì, le banche oggi recuperano terreno dopo che il settore era stato appesantito ieri dagli esiti degli stress test penalizzati nel complesso verso le banche italiane. Il Monte dei Paschi, che ieri aveva accusato un tracollo del 20% sulla notizia di non aver superato gli stress test, oggi registra un parziale recupero, sale del 2,7%, mentre gli investitori si interrogano sul futuro della banca, che potrebbe andare in sposa a qualche istituto. Alzano la testa anche le azioni di Carige, più 3,6%, l'altra banca italiana bocciata dalla BCE. Oggi l'istituto genovese ha annunciato la cessione delle attività assicurative. Va bene anche Mediobanca, che realizza un progresso del 4% dopo la pubblicazione di una trimestrale migliore delle attese degli analisti, mentre è in corso l'assemblea dell'istituto. In generale ci sono acquisti comunque su tutto il settore bancario. Grazie Isabella, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Abbiamo recuperato Matteo Biffoni, sindaco di Prato, spero da un telefono fisso, così magari non cade la linea. Biffoni, ci siamo, eccoci, buongiorno. Ci siamo. Cadeva in continuazione. Riparto dalla domanda molto secca. Vi risulta sì o no, posto che ci ha chiarito, era un'altra amministrazione che nella... Noi quando ci siamo resi conto che ci succedeva, che capitava che ci fossero questo tipo di controlli senza che poi venissero comunicati chiarisco per ascoltatori che magari si fossero messi in ascolto solamente in questo momento. Giusto. Stiamo parlando della vicenda del rogo di Prato del 1 dicembre del 2013, nel quale morirono 7 lavoratori cinesi, e del fatto che, secondo una testimonianza resa ieri dal processo, nel processo alla titolare, sul dormitorio all'interno della fabbrica, che è chiaramente illegale, dei i tecnici sono andati a prendere le misure per far pagare la tassa sui rifiuti, e ne stiamo chiedendo conto al sindaco di Prato, Matteo Biffoni, per avere notizie su questo. Prego Biffoni. No, è così, nel senso, è capitato che ci fossero questi tipi di controlli e che non fossero stati rilevati per non si sa bene per quale ragione. Adesso approfondiremo tutto, perché insomma, nel senso, sono notizie abbastanza, come dire, preoccupanti da questo punto di vista. Noi approfondiremo quello che è successo e perché questi tipi di comunicazioni non sono poi state passate agli organismi competenti. C'è stata una interruzione inspiegabile di comunicazione fra chi doveva andare, entrava, aveva la possibilità di entrare dentro i capannoni, e in un caso come quello, che vedeva degli abusi e non gli segnalava. Su questo approfondiremo. Noi adesso acquisiamo, già da un pezzo, almeno da quando ci sono io, acquisiamo sempre per i verbali di fa ispezioni o entra in trapannone lì, tant'è abbiamo firmato un accordo e tutti tutti gli organismi dello Stato sono informati di quello che accade dentro a Pannoni, quindi dall'INPS, all'INAIL, all'Agenzia delle Entrate, ovviamente le forze dell'ordine, eccetera, eccetera, proprio perché per evitare che accada robe come abbiamo letto sui giornali oggi. Perché il tema è quello che ci sottopone Giampiero via SMS, che è un pratese, dice vivo là, o è un pratese o ci vive comunque, vivo a Prato, è tutto vero, tutti sanno tutto e in queste fabbriche si vive nell'illegalità totale, perché è anche questo il tema, sindaco, perché lei ci diceva prima, insomma, siamo una nuova amministrazione, prima ce n'era un'altra, eccetera, eccetera, è vero che però come anche l'imprenditrice, la titolare di quella fabbrica ha detto, di quell'azienda ha detto, a Prato tutti sanno tutto e finisce che nessuno fa niente o non si fa abbastanza. Mi permetta, noi facciamo da settembre 4 controlli al giorno, arriveranno a essere 10 insieme alla Regione Toscana, abbiamo messo su una squadra che controllerà sostanzialmente tutte le aziende entro 3 anni e mezzo. Che si faccia poco non lo so, prima io francamente non voglio dare giudizi, so che adesso questi sono i numeri e noi possiamo dimostrare che da settembre sono state controllate, dall'inizio di settembre a ora sono state controllate oltre 170 imprese, fra controlli interforze, controlli dei carabinieri, della polizia municipale e dell'ASL attraverso gli ispettori della regione. Tutti i giorni noi sostanzialmente chiudiamo aziende quando si meritano di essere chiuse, sanzioniamo quando devono essere sanzionate e lasciamo lavorare in assolutamente santa pace quelle purtroppo poche aziende invece dimostrano di essere in regola. Quante irregolarità avete trovato in questi controlli? Moltissime, noi abbiamo solo 8 aziende regolari di quelle abbiamo visto, regolari nel senso che significa che le irregolarità ovviamente hanno una gradualità, ci sono situazioni in cui è necessario sequestrare il capannone perché c'è la commistione diciamo fra lavoro e vita, nel senso dove magari si dorme o si mangia nello stesso luogo, ci sono poi, che è la grande maggioranza, invece sanzioni di carattere diverso, e sanzioni per cui vanno sistemate impianti elettrici non a norma, impianti idraulici non a norma, impianti antincendio non a norma, ecco su questo poi c'è la gradualità, però diciamo trovare aziende, capannoni in regola è difficile, è raro, ecco, purtroppo ancora è raro. E quante aziende completamente irregolari, quante fabbriche dormitorio avete trovato finora da quando avete avviato i controlli? Allora, complessiva. Ora, ma magari non si ricorda la cifra precisa, però per darmi un'idea. Guardi, diciamo. Quando noi interveniamo con le interforze, cioè con quella squadra che abbiamo messo su, e che questo diciamo, è un lavoro che ormai a Prato si fa da anni, cioè una squadra che mette insieme, oltre alle forze dell'ordine, la polizia municipale, i pompieri, la ASL, l'INAIL, eccetera, andiamo a botta quasi sicura, cioè chiudiamo perché andiamo su segnalazioni, quindi sappiamo dove andare e chiudiamo sempre. Quando invece facciamo controlli diciamo di così a campione come stiamo facendo adesso, ne capita di chiudere insomma abbastanza. Ora non ricordo il numero preciso, ma mi sembra che delle chiusure se ne siano state fatte una ventina di sequestri diciamo in questi ultimi mesi, cioè, insomma i numeri sono numeri abbastanza importanti. Noi dove troviamo una commistione chiudiamo, sequestriamo immediatamente. Allora, grazie a Matteo Biffoni, sindaco di Prato, auguri di buon lavoro naturalmente e anche per l'estensione di questi controlli che avverranno. E saluto Luca Coletto, che è assessore alla sanità della Regione Veneto. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi, buongiorno. E benvenuto. Con lei per parlare ancora dei militari in quarantena nella caserma di Ederle a Vicenza. Abbiamo avuto poco fa il sottosegretario alla difesa Domenico Rossi che ci ha detto guardate, questi atterrano a Pratica di Mare, a Pratica di Mare avviene un primo screening, quelli che sono là dentro a Vicenza sono in una situazione per così dire ultra precauzionale voluta dagli Stati Uniti, però ho visto che voi, almeno la vostra giunta, si sta lamentando di questa situazione, ci spiega un po' meglio perché? Sostanzialmente il motivo è molto semplice, una volta che rientrano da paesi interessati da Ebola come la Liberia, come la Sierra Leone o la Guinea Conakry, se c'è il pur minimo sospetto, come ha detto il Presidente poco fa in conferenza stampa, sarebbe opportuno che rientrassero direttamente negli Stati Uniti, anche se va detto che c'è stato un protocollo sottoscritto dal Ministero della Sanità insieme al Ministero della Difesa con gli americani affinché ci siano delle regole precise nel caso dovessero atterrare o ritornare da questi paesi verso l'Italia. E la conseguenza qual è? La conseguenza è un protocollo, del protocollo sottoscritto, che per 21 giorni questi soldati devono rimanere in isolamento, non avere contatti nemmeno con i familiari. Quindi, premesso che non c'è nessun pericolo, e questo va detto in maniera chiara, in considerazione del fatto che sono stati controllati, come diceva lei, poc'anzi a Pratica di Mare quando sono arrivati. Poi sono stati smistati nelle caserme d'appartenenza, ma anche nelle caserme d'appartenenza devono fare questa, fra virgolette, quarantena che vale 21 giorni, che è il periodo di incubazione appunto della patologia. Però le ripeto, a questo punto non capisco quale sia il problema, nel senso, nel momento nel quale, ripeto, li controllano a Pratica di Mare, poi, come ci spiegava Rossi, con un pullman vengono portati all'interno di una base militare nella quale non è che, insomma, abbia accesso tutta questa gente, vengono tenuti in quarantena, a quel punto mi sembra il problema non ci sia. Le dico, mi scrive anche un ascoltatore, dice: guardate, io abito attaccato ad Ederle, qua non c'è nessun allarme, lo state facendo voi dei mass media. Sì, ma la realtà di fatti è proprio quella. Allarmi non c'è nessun genere, è sbagliato parlare sia di pandemia che di epidemia. Sostanzialmente la questione è legata ad alcuni paesi dove la gestione sanitaria è molto difficile, soprattutto per l'igiene che spesso e volentieri viene a mancare, dove l'Ebola ed altre patologie tipo l'aviaria trovano facile terreno, insomma, per crescere meglio e svilupparsi. Quello che diceva il presidente Zaia sostanzialmente è un concetto molto lineare. Se ci potessero essere dei problemi, l'opportunità qual è? Che andassero direttamente a essere curati negli Stati Uniti. Comunque sia, al di là di queste, come dire, considerazioni che sono assolutamente lineari e semplici, esiste un protocollo del Ministero, va rispettato. C'è un accordo fra nazioni, fra ministeri della difesa e della sanità, dove è stato esplicitato questo iter, e questo iter viene rispettato. Coletto, voi avete un'idea di come siano tenuti in quarantena, per così dire, questi soldati all'interno della caserma? Immagino in un ambiente chiuso, perché ci scrive un altro ascoltatore, dice: lo sapete quanti vicentini lavorano dentro alla Ederle? Guardi, io personalmente non ho visto il protocollo, anche perché è di firma molto fresca, è stato firmato la settimana scorsa, quindi è molto recente. Certo è che a seguire questo protocollo e, come dire, a stenderlo sono stati gli specialisti del Ministero, quindi immunologi, virologi, infettivologi e via dicendo, e di conseguenza sicuramente rispetterà tutte quelle che sono le norme per garantire la sicurezza e di chi può aver contratto la patologia, ma non è il caso di Vicenza, e di chi lavora intorno, visto e considerato che anche noi come Veneto abbiamo steso un protocollo proprio finalizzato a che ci sia una gestione dell'eventualità se dovesse manifestare qualche caso. Grazie Luca Coletto, assessore alla sanità della Regione Veneto. Prima di sentire cosa succede sulle strade, c'è un ultimo aggiornamento. L'ISIS ha lanciato un appello ai cosiddetti lupi solitari a colpire gli insegnanti americani e stranieri delle scuole internazionali nei paesi musulmani. Questo è l'aggiornamento per quanto riguarda l'ISIS, mentre ne arriva un altro per quanto riguarda l'audizione di Napolitano sulla trattativa Stato-mafia. Secondo quanto noto da un legale, ha risposto a diverse domande delle parti, in alcuni casi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. U.S. Ambassador to the United Nations Samantha Power arrives in Ebola-stricken Guinea today. It's the first stop